era il colore dei nostri corpi addormentati sotto il sole, sulle tue labbra c'era un sapore che non ho scordato mai. Miele, le nostre fughe, e si tornava lenti come tartarughe. Quella sera che inventai il tuo nome, già cadevano le prime stelle. Miele, come eri bella. E l'estate ancora sa di miele, anche se io senza te sto male. Con me c'è un'altra cosa. Quando arrivi, chiamami se vuoi. Forse lì mi innamorai, sulle tue labbra c'era un sapore che non ho scordato mai. Miele, torni domani. Cos'è cambiato? Forse è colpa degli esami. Quando hai detto scusami è finita e cadevano le prime stelle. Miele, come eri bella. E l'estate ancora sa senza te sto male, con me c'è un'altra e potrei far l'amore, ma non è miele. E l'estate ancora sa di miele, anche se io sento